In a moment, you'll hear a new subject introduced. To help you understand the conversation, here's some new language. Come al solito, ascolti e ripeta l'italiano dopo la seconda volta. Viaggiare. To travel. Viaggiare. In bicicletta. By bike. In bicicletta. Si può. One can. Si può. Inquinamento. Pollution. Inquinamento. Ed ora ascolti di nuovo queste parole. Viaggiare. Inquinamento. In bicicletta. Si può. Ed ora ascolti il dialogo. Andiamo in macchina, quindi non c'è il problema del trasporto. Sì, andiamo in macchina. Oh, by the way, there are no cars around today. No, oggi è una domenica a piedi. Sunday on foot. Esatto. Si può viaggiare in centro solo in bicicletta o in autobus e, naturalmente, a piedi. Interessante. E perché? Per l'inquinamento. L'inquinamento. Pollution. Questo è un grande problema per Firenze.